Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Adesso chiamano anche lei. Un attimo. Ma chiamano anche... Vabbè, dai, sentiamo i titoli e poi dopo incominciamo. Settimana di Nobel scientifici, medicina, fisica e chimica. Sentiamo le voci dei protagonisti. Linguaggio e movimenti del corpo. Come si influenzano reciprocamente, ma anche come si differenziano tra diverse culture. Dal Salone Nautico di Genova vi raccontiamo di quelle imbarcazioni cariche di sensori che servono per la ricerca scientifica. Tecnologie informatiche per rivoluzionare la didattica. Partono i primi esperimenti di qualcosa che cambierà profondamente le modalità di apprendimento. Ti hanno telefonato questa mattina? Ma veramente ancora no, però aspetta. A me sì, beh, ma sono 340 milioni di telefonate. Sì, infatti, però sarei la prima, il bicocco, una delle prime. Vabbè, ma, comunque, forse non vanno in ordine alfabetico. Ma scusa, voglio dire, se l'Unione Europea vince il premio Nobel per la pace, cioè che siamo noi che l'abbiamo vinto. Sì, sì, ma io infatti attendo la telefonata. Vabbè, ma a noi non ci chiamano, mentre invece... Allora, dai, la settimana dei Nobel lo sappiamo. La settimana dei Nobel scientifici, quindi non possiamo non parlarne, ma vogliamo un po' parlarne a nostro modo. Sì. Perché tanto sulle pagine dei giornali, in tutti i TG, tutto. È uscito tutto quello che era possibile spiegare. Però, insomma, noi vorremmo farvi sentire le voci, come dicevamo, nei titoli. Certo, dei protagonisti, quindi dei veri premi Nobel. Io direi di partire con il primo, che veramente è esilarante. Allora, noi vi faremo sentire, ora lo spieghiamo agli ascoltatori, la telefonata del direttore editoriale del sito web dei Nobel, quindi il giornalista che rappresenta i Nobel, che chiama non appena i Nobel hanno ricevuto la telefonata da Stoccolma e hanno quello più ufficiale, diciamo, di aver ricevuto il premio. Viene subito contattato da questo giornalista, Adam Smith, bravissimo, che chiede appunto come hanno reagito subito a caldo alla notizia. Subito dopo, un minuto dopo. Questa subito è la dopo. E queste sono registrate. E queste sono registrate e io mi sono un po' divertita, insomma, a tradurle e a prendervi i pezzettini che secondo me erano fondamentali. Quindi direi di partire dal premio Nobel per la fisica. Doveroso ricordare, David J. Wineland, e ha ricevuto il premio insieme a Serge Heroche. Entrambi, insomma, hanno lavorato sui quanti per... sui computer quantistici. Esatto. Vabbè, per una nuova adesso, generazione. Ma questa è un'altra a noi storia. Non interessa. Adesso vorrei farvi sentire la chiamata. Ovviamente inizia con il signor Adam, il nostro collega, che lo chiama e si congratula. Oh, hello. I'm sorry to call so very early. May I speak to Professor David Wineland, please? Ecco, lo chiama, insomma, si scusa per l'orario. Adam Smith, from the Nobel Prize website. Si presenta, sono del sito dei Nobel e la chiamo da Stoccolma, insomma, l'avviso che la chiamata è registrata, le posso rubare qualche minuto? Eh certo, lui dice. Thank you very much indeed. First of all, of course, our sincere congratulations on the award of the Nobel Prize. Oh, thank you. Ecco, quindi fai congratulazioni. Mi scusi per l'orario, qui è notte fonda. Ecco. Ecco, qui è il punto cruciale. Lui gli dice: cosa ha pensato quando ha visto la chiamata di Stoccolma? E lui molto pacatamente dice: stavo dormendo, mi ha svegliato. In effetti sembra abbastanza addormentato. Sì, distaccato, però non capisco. Qui dice che tornano a dormire. Esatto, cioè quando vabbè, ma scusa, allora. Quando Smith gli chiede ma scusi, qual è stata la reazione iniziale? Cosa farà adesso? Non torna è una giornata normale. Beh, probabilmente tornerò a dormire. Con amore, insomma, molto metto... serafico. Vabbè, ecco. Beh, ma scusa, allora a questo punto io non so se darli, perché se la reazione è questa. Però davvero lui è impressionante. Lui è uno che a sonno. Va bene, allora passiamo a Yamanaka Shinya, non so come si pronuncia, il giapponese che ha vinto il Nobel per la medicina per gli studi sulle staminali insieme a John Gardner, risponde in questo modo. Un po' più allegro lui, o no? Ma ti faccio sentire. Hello? Hello, may I speak to Professor Yamanaka, please? Yes, speaking. Oh, hello, this is Adam Smith calling from the Nobel Prize website in Stockholm. Qui gli dice che se gli può rubare qualche minuto. new Nobel laureates. Would you be able to speak for just a very few minutes? Thank you. First of all, our sincere congratulations on the award of the Nobel Prize. Oh, thank you very much. It is a tremendous honor to me. È onorato, certo. So, may I ask, what were you doing when the call from Stockholm came? Cosa stava facendo? Well, actually, I was at home. I was doing some houseworks. Stava facendo le pulizie. Stava facendo i lavori domestici. Very surprised. So you were actually doing some housework. You were cleaning the house or something. Ma ci spieghi qual è stata la sua reazione iniziale? And can you recall your initial reaction to the call? Well, anche lui è abbastanza quieto. So I was kind of alarmed by my secretary. Era stato avvisato lui. Sì, dalla segretaria. So she got the call from a call from che c'era Stockholm, una chiamata a Stoccolma nell'aria about my phone number. So she kind of gave me an alert. Gli aveva dato un allarme. C'era odore di Nobel. So ma senti cosa dice. I was surprised. I was almost, you know, I just thought, wow, it's a phone call from Stockholm. So era incredulo e l'unica parola che gli sono uscite sono wow. Giapponese wow. Però il giapponese che stava facendo i lavori di casa, certo, ti preallerta. Certo. E il povero Smith, incredulo, gli dice: ma stavi proprio facendo i lavori di casa? Sì, sì, stavo proprio pulendo la casa, ecco. Però il più frizzante di tutti Nobel, è questo. Certo. Il più frizzante di tutti è sicuramente il chimico Robert J. Lefkowitz, che è newyorkese, lavora alla Duke University, ha preso il Nobel insieme a Brian Kobilka per gli studi su dei recettori cellulari accoppiati alle proteine G. Però, qui è che conta la telefonata. Qui che conta la telefonata, perché veramente lui è quello più frizzante di tutti. Sentiamolo. Inizia sempre nello stesso modo, Adam Smith lo chiama, si congratula, gli chiede se ha qualche secondo da dedicargli. Thank you very much indeed. Well, first of all, sincere congratulations on Well, thank you. It's a very exciting day, needless to say. Grande giorno eccitante. È già più eccitato. The jubilation that are going on in your lab and that it's crammed with people. Absolutely. It's when I got in this morning, which was a bit late because I had been doing phone interviews from home. They had balloons up. Ecco, qua dice, ho sentito parlare che nel suo laboratorio ci sono state scene di giubilo e lui dice, sì, sì, palloncini. Gli hanno messo i palloncini, gli hanno urlato dalle finestre. And you know, to see recognition for, you know, what we've been doing over the years, even if, you know, it was done. Dice che è una bellissima esperienza per tutti, che i ricercatori lavorano duro tutti i giorni ed è un riconoscimento per la fatica di questi anni di lavoro. Must have played havoc with the plans for the day, but that's another story. Oh, absolutely. In fact, I was supposed to get a haircut at 1 o'clock. Andare dal barbiere. E dice. Sì, perché l'altro gli ha detto, forse la giornata è cambiata. Gli hanno scombussolato un po' i piani della giornata. Sì, perché io all'1 avevo appuntamento dal barbiere. Dice che ne avevo bisogno, eh. Lei dice, ne avevo bisogno. E se lei avesse un video, sarebbe d'accordo con me. Questo Nobel qui c'ha i capelli fino all'ombelico. È proprio simpatico. E allora dice, il barbiere dovrà aspettare 1 o 2 giorni. Però davvero quelli del laboratorio stanno venendo qui a congratularsi, tutti i colleghi di questi anni di lavoro. E poi dice, orgogliosamente, at 75 years, which pales by comparison with things like Harvard or Princeton, this kind of certo, che è la prima volta che la sua università, la Duke University, è giovane in confronto ovviamente ad Harvard e a Princeton, ed è la prima volta che prende il Nobel. Questi non sono andati tutti a dormire, tutti in laboratorio, ma è una questione di fuso orario. Hanno fatto festa, giustamente. Insomma, speriamo che gli ascoltatori siano rimasti soddisfatti della nostra selezione di telefonate nobelasche. E poi che ricevano questa telefonata per il Nobel agli europei. Anch'io l'aspetto. Per la pace. Il traffico adesso, quello su terra e sulle strade. Vediamo che cosa sta succedendo. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Oh, Chiara, questo è un argomento che dovrebbe interessarti, perché sì, anche tu quando parli sbracci tremendamente. Gesticolo molto, esatto. Gesticoli molto. Linguaggio e movimenti del corpo. Ci sono tre ricercatrici italiane, Barbara Tomasino, Liuba Pappeo e Raffaella Rumiati, che sono tutte neuroscienziate e lavorano su questi temi. Hanno pubblicato di recente 2 articoli, uno su Journal of Cognitive Neuroscience e l'altro su Cortex, che sono 2 riviste autorevoli che si interessano, sì, di questi argomenti e questa sera ne abbiamo una. E hanno studiato un po' il rapporto che esiste tra il movimento e invece il linguaggio. E il linguaggio, relazione estremamente complessa e anche affascinante. Allora, dicevo, questa sera ne abbiamo una con noi delle tre ricercatrici, Liuba Pappeo. Buonasera Pappeo. Buonasera. Buonasera. Che si trova, questa era cosa curiosa, a Boston. Mentre noi eravamo a Trieste, eravamo andate a trovarla. Eravamo venite da lei, dove lei ha studiato qui, alla Sissa? Sì, sì, ho fatto il mio dottorato lì in Sissa, sì. E adesso invece è alla Harvard di Boston. Sì, adesso sono ad Harvard con una borsa Marie Curie a fare il mio postdoc. Senta, andiamo al punto. Che andiamo cosa in punto e cominciamo. Avete sperimentato? Abbiamo sperimentato, come dicevate, la relazione tra linguaggio e corpo, l'abbiamo messa alla prova. L'idea è che il corpo è il mezzo con cui tutti gli esseri viventi interagiscono col mondo, mentre le parole e il linguaggio sono il mezzo a disposizione dell'uomo che arricchisce un po' questa comunicazione, la rende più complessa e più profonda. Tuttavia ci sono dei gesti che sono più simili, che sono speciali perché si avvicinano di più alle parole rispetto ad altre azioni e questi gesti sono chiamati gesti simbolici, comunicativi oppure gesti emblematici, come ad esempio sventolare la mano per fare ciao, per dire ciao. E perché sono simili alle parole? Perché come per le parole noi siamo capaci di associare immediatamente un gesto completamente arbitrario, come appunto sventolare la mano, con un significato ben preciso, che è quello appunto salutare. Così come quando leggiamo una parola, che è una stringa di lettere casuale come casa, recuperiamo immediatamente un significato ben preciso, che è quello di casa. Mm-hmm. Quindi quello che noi abbiamo voluto fare, appunto, cioè le analogie tra questi gesti comunicativi e le parole sono talmente tante che le teorie evoluzionistiche, delle prospettive evoluzionistiche sul linguaggio sostengono che proprio il linguaggio umano si sia evoluto da questa capacità di comunicare, soprattutto con gesti manuali. Quindi noi abbiamo voluto semplicemente capire se quanto è importante l'abilità di comunicare, quindi di saper performare, svolgere questi gesti manuali, per la competenza linguistica, quindi la capacità di produrre e comprendere le parole. E il modo in cui abbiamo fatto questo è stato partire dallo studio dei pazienti neurologici, quindi pazienti con disturbi, con danni cerebrali dovuti ad incidenti appunto cerebrovascolari. E la domanda è molto semplice, ci siamo chiesti qual è l'effetto di un danno cerebrale al sistema che governa, diciamo, la produzione di gesti manuali sulla comprensione del linguaggio. Quindi che cosa succede se io impoverisco questa comunicazione gestuale nelle abilità, quali sono le conseguenze per le abilità linguistiche. Cioè, se avete studiato pazienti con disabilità, cioè avevano problemi al lobo sinistro, ad esempio, per cui avevano problemi sia di linguaggio che di movimento? Esatto, allora questo è importante. Avevano il lobo sinistro è associato a disturbi sia del linguaggio che del movimento. L'obiettivo è quello di, era quello appunto di provare a mostrare una dissociazione, cioè di provare a mostrare che anche in caso che ci sono alcuni casi in cui il danno motorio, il danno nell'esecuzione dell'azione non è accompagnato dal danno nel linguaggio, che quella è un po' la sfida appunto, perché stiamo parlando di due sistemi che in qualche modo si assestano soprattutto nell'emisfero sinistro, per cui è molto difficile trovare una distorsione di questi sintomi, perché appunto il sistema del linguaggio e il sistema motorio tendono ad assestarsi nell'emisfero sinistro, e quindi quando si ha un danno cerebrale di solito la lesione è molto vasta, per cui si perdono grossissime parti del cervello purtroppo, e quindi è facile che entrambi i sistemi vengano danneggiati, e quindi la sfida è quella di riuscire a dimostrare che si può avere un danno ad un sistema senza avere il danno ad un altro sistema. Papio, ci può fare proprio un esempio, una persona che ha un danno motorio ma anche quindi cerebrale E quindi, per esempio, non può muovere non la mano più. Per dire ciao. Esatto. E voi cosa andate a vedere? Quello... Vuol dire andate a vedere che non riesce nemmeno a pronunciare ciao? Prima di tutto c'è da chiarire una cosa, che quando parlo di danno motorio non parlo di danno motorio periferico, cioè il paziente non riesce a dire ciao con la mano non perché abbia un danno periferico tipo una paralisi. Certo, certo. Ma certo, perché ha perso proprio la funzionalità dei centri centrali, esatto, cioè proprio un danno alla rappresentazione di quell'azione. E quindi noi abbiamo trovato appunto che ci sono pazienti che non riescono a fare ciò con la mano, ma possono comprendere la parola salutare e produrre la parola salutare, come dire che non possono salutare con la mano, ma possono salutare con le parole. Poi in sintesi, il risultato di questi lavori, che importanza ha appunto a livello ovviamente della cura del paziente, ma anche per un neuroscienziato? Cioè è un risultato importante capire proprio questi collegamenti, perché? Ecco, allora questo tipo di metodologia, questo tipo di studio con i pazienti, che è chiamato approccio neuropsicologico cognitivo, provvede proprio, fornisce una base molto solida per pensare, per ipotizzare che due sistemi nel cervello sono distinti, cioè si sta parlando appunto di sistemi distinti. Quindi questo è importante, ci dice non solo che il linguaggio se insediato nel sistema umano, nel cervello umano, andando oltre il sistema motorio, ma ci dice che proprio si è separato da esso, cioè non stiamo parlando soltanto di un'abilità che ha aggiunto qualcosa a un'abilità di base che noi condividiamo con altre specie. Si è sviluppato autonomamente, questo esatto. È il... Ecco, però Papè, volevo chiederle anche questo, al di là dei casi patologici, poi però ci sono delle differenze fra le comunità, fra noi, fra le tante tribù umane, che sono significative. Per esempio, direi che almeno in Europa o anche negli Stati Uniti, quando si parla del passato, si tende a con le due braccia e gesticolare verso il retro della testa, no? Mentre invece per alcune popolazioni il futuro è alle spalle, e quindi mi aspetto che non abbiano, no? Il futuro è qualcosa che arriva dalle spalle, quindi c'è una diversissima collocazione. Cambiano, quindi vuol dire che il gesticolare, insomma, i movimenti del corpo possono anche essere connessi fortemente al linguaggio, ma anche in modo diverso tra gli umani. Esatto, cioè sono delle convenzioni legate assolutamente alla cultura, e quindi già questa variabilità ci fa pensare che non ci sia niente di necessario lì, ci sono dei fenomeni linguistici, per esempio, quasi tutte le lingue naturali, tutte le lingue del mondo distinguono tra nomi e verbi, quindi questo fa pensare che nel cervello ci sia qualcosa che sia predisposto a questa distinzione. Ora non entro nel dettaglio dell'importanza di questa cosa, ma per far capire che ci sono dei fenomeni che sembrano necessari, e come dice lei, ci sono invece altri fenomeni che sono sono più variabili, quindi associati al contesto culturale, quindi questo già fa pensare, questa flessibilità già fa pensare che non ci sia niente di predisposto per quel tipo di gesto nel cervello, ma che appunto sono proprio legati alla convenzione. Sicuramente il fatto che il gesto accompagni il linguaggio è una cosa universale che è stata studiata ed è molto interessante, perché in realtà arricchisce il contenuto del linguaggio, ma il contenuto, cioè il modo in cui il gesto si manifesta, è legato alla cultura del luogo e del momento. Le dico anche un aneddoto, che quando stavo selezionando i materiali per i miei esperimenti, quindi avevo bisogno di selezionare questi gesti emblematici, ho avuto difficoltà perché io sono originaria del sud Italia e quindi avevo una serie di, cioè, quindi già tra nord e sud Italia io ho notato una differenza proprio nella convenzione. Cioè, ci sono poi addirittura, su questo possiamo concludere, dei linguaggi che sono strettamente connessi soltanto al gesto, ai concetti. Ci furono dei gravissimi problemi per le truppe americane quando arrivarono in Iraq nel 91 o anche nel 2000. e due perché alcuni gesti che facevano verso la popolazione ai posti di blocco per fermare, per esempio, erano largamente offensivi. Sì, sì, erano invece... molto volgarmente significavano vai a quel paese, ma non detto così, insomma. Benissimo. E quindi c'è dei disastri di interpretazione di gesti che per noi erano normali, invece va bene. Grazie Papeo. Grazie Papeo, buon lavoro e buona ricerca. Grazie a voi. Grazie. Una pausa e poi state qui che arriviamo subitissimo. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Chissà se qualcuno di voi si ricorda, perché erano uscite su tutti i giornali, anche televisioni, anche Discovery, per esempio, ho già fatto un sacco di documentari, quelle immagini prese tutte dall'alto, da elicotteri, da aerei, anche da satelliti addirittura, di grandi cerchi. Grandi disegni anche. Poi scusa, c'è una trasmissione televisiva italiana che dà tanto... Che si appena può fa vedere, ecco, la foto di un cerchio, che se è Katzinger ormai la chiamiamo tutti così. Erano cerchi nel grano. Saranno stati almeno 30 anni, non lo so, adesso lo chiediamo al nostro ospite. E ce n'è uno che ultimamente, soprattutto mi sembra l'anno scorso, nel 2011, ha fatto molto parlare di sé sulla interpretazione, ed è il cerchio del grano di Poirino. Allora, è venuto fuori recentemente in occasione del 12° convegno nazionale del CICAP, e lo ricordiamo anche se ne parliamo spesso qui a Mebius, il CICAP è il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni del Paranormale. In quell'occasione, uno dei ricercatori, degli sperimentatori del comitato, in particolar modo un ingegnere elettronico, ha fatto una rivelazione ed ora la farà anche qui ai nostri microfoni. Francesco Grassi, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti voi. Ci siamo dimenticati di dire che intorno a questi cerchi da decenni ci sono le leggende, le interpretazioni più diverse di origine soprannaturale, marziani, che si abbonda. Maya, chi più ne ha più ne metta. Cosa è successo? Perché voi avete fatto un bel trucco. Beh, adesso vi spiego meglio tutta la vicenda. In realtà, giusto due parole sull'origine del fenomeno. Il fenomeno effettivamente nasce proprio nel 1980 dal punto di vista mediatico, perché il primo articolo in Inghilterra che parla su un quotidiano locale dei cerchi è dell'80. In realtà la storia parte qualche anno prima, un paio d'anni prima, e intorno al 78. In realtà si rivela nel 1991 perché due artisti, dei pittori che si chiamano Doug e Dave, sono i due nomi, rivelano alla stampa di aver iniziato questa arte, il circle making, cioè di quelli che fanno i cerchi, con uno scopo. Però in realtà lo scopo originale era quello di fare una burla, perché in realtà l'idea originale era di creare un'area appiattita circolare per illudere, per creare l'illusione che lì fosse atterrata un'astronave aliena. L'astronave. Nasce il fenomeno. Benissimo. Certo. E invece poi in realtà nel corso del tempo queste forme si sono rese più importanti dal punto di vista della dimensione, della complessità, perché in realtà le due persone, Doug e Dave, in realtà seguivano quello che veniva raccontato sui propri cerchi e quindi complicavano le forme per destare sempre interesse e sensazione. Poi in realtà nel 91 rivelarono di essere stati loro, ma questa cosa non pose fine al fenomeno, perché il fenomeno andò ancora avanti come lo conosciamo oggi, e nuovi circle maker, nuovi team, nuove persone iniziarono a fare i cerchi e complicarono le forme e le resero più, insomma, più, cioè, artistiche. La testimonianza dei due signori fu completamente messa ignorata. Da parte. Sì, ma fu messa da parte, in realtà fu screditata, come furono screditati come agenti della CIA, dei servizi segreti, insabbiatori del fenomeno reale di Duino, e quindi la cosa si complica, un mega complotto, le forze oscure, insomma, il nuovo ordine mondiale, che insomma, cose che rientrano nel complottismo. Ecco, fino a 3 giorni fa in cui c'è stata questa rivelazione ulteriore. Un ingegnere del CICAP cosa decide di fare? Sì, quello che decido di fare è quello che poi racconto anche nel mio libro, che un po' fa il punto su tutte le ricerche che abbiamo fatto, che ho fatto io in prima persona, e sostanzialmente l'idea centrale è questa. Chi entra nel mondo dei cerchi, come lo chiamo io, cioè chi entra a ragionare su questi temi, alla fine rimane ingabbiato dai ragionamenti circolari, perché alla fine non si può dimostrare che tutti i cerchi siano un'opera dell'uomo e così via. E quindi quello che propongo io è l'idea, un po' la pillola rossa che fa un po' capo all'idea di Matrix, Morpheus e Neo, questo tipo di simbologie, perché lo racconto nel libro in quest'ottica. L'idea, per uscire dal cerchio, l'unico modo e ce n'è uno solo, insomma, l'unico modo che c'è è quello di creare il cerchio. No, non avrà mica fatto lei il cerchio di Poerino. Sì, sì, assolutamente sì, l'ho fatto io. L'ha fatto lei, ecco. Una notte. L'ha detto. Sì, sì, l'ho detto io, l'ho fatto io, quello di Poerino del 2011, è la rivelazione che abbiamo fatto al convegno del CICAP, l'abbiamo fatto insieme a altre 6 persone, quindi in totale 7 circle maker. È grande? Abbastanza grande, insomma, contenuto in un 100 metri per 100 metri. Anche molto ricamato, insomma, invitiamo la gente ad andare a cercarlo su internet, lo metteremo anche sul nostro sito. Scusi, ci può svelare 2 parole sulla tecnica, cosa avete combinato? Come si fa? Sì, beh, la tecnica è sempre di base quella inventata dai 2 padri del circle making, cioè si usano, questa forse è una novità, ma diciamo che la racconto regolarmente, è come se io facessi un disegno su un foglio di carta, quindi se io disegno con la matita le linee di costruzione, quelle linee di costruzione vengono realizzate con i piedi, quindi con i piedi si abbattono delle fasce di vegetazione che sono larghe quanto la scarpa, lo scarpone, 30-40 centimetri, e così traccio le linee di costruzione. Una volta tracciate le linee di costruzione, poi appiattisco le aree che mi interessa appiattire. Sempre con i piedi. Sempre con i piedi. Beh, insomma, sempre con i piedi, in realtà ho avuto delle tavole che si mettono sul piede, servono per... No, lo dico perché si è parlato di laser, di elicotteri e quant'altro. Però scusi... Posso fare una rivelazione, visto che abbiamo citato il laser. Effettivamente i circle maker moderni usano anche il laser, ma non per piegare come i film di fantascienza e appiattire solo le spighe e la vegetazione, ma come puntatori per tirare delle linee rette. Ah, certo. Per certo. Avere un effetto ancora più preciso. Ma sul cerchio di su questo cerchio l'avete fatto in una notte? Assolutamente sì, dal tramonto all'alba. Ah, dal tramonto all'alba, perché ci vogliono quindi 7-8 ore di lavoro duro, e poi sono venute fuori un sacco di ipotesi. E perché sono stati talmente bravi che addirittura dal numero di ciuffi di vegetazione appiattiti sono venute fuori coordinate geografiche di una località somala. Cioè, siete stati veramente bravissimi. Ma allora vi racconto un po' le idee che c'erano dietro. In realtà questo esperimento, che è effettivamente un vero e proprio esperimento sociale, perché l'obiettivo, come descrivo, non è quello di ridicolizzare chi poi ha interpretato o interpreterà, perché sicuramente continueranno a interpretare quel disegno e tanti altri. Non era quello di ridicolizzare, ma quello di provare sulla propria pelle e quindi poi descrivere che cosa succede quando si fanno queste cose. Quindi abbiamo inserito degli stimoli voluti, per esempio c'era la codifica di questa divinità barra extraterrestre Enki Ea, si chiamerebbe così. Abbiamo codificato in maniera digitale nei puntali che uscivano dal disegno. E poi in realtà abbiamo inserito degli stimoli casuali, assolutamente, cioè creati quella notte in base alle circostanze e alla sensazione del momento, che erano questi ciuffi che sono stati lasciati in piedi nei vari petali, nei 7 petali della formazione. Che trappolone che avete fatto! Insomma, ha avuto successo. Sì, ha avuto successo. La rivelazione. Assolutamente sì, perché comunque nel corso del tempo, nei primi mesi, ma ancora oggi, sono state poi fatte delle correlazioni e tante interpretazioni sono fiorite, a parte sulla decodifica del nome, quello è stato abbastanza, diciamo, veloce. Più semplice. Ma in realtà anche sul numero di ciuffi tutte le correlazioni sono venute fuori. Quindi abbiamo provato noi sulla nostra pelle cosa significa creare questi stimoli e come risponde la comunità planetaria, perché ecco, il mondo ha risposto. Questo era il vero significato del vostro lavoro, bravissimi insomma. Adesso vi butterete sui quadranti, grazie Francesco Grassi e buon lavoro notturno. Grazie a voi. Ricordiamo il titolo del libro, Cerchi nel grano, tracce di intelligenza, Stess Editore. Dalla scorsa settimana, quando eravamo a Next, ci siamo portati appresso un'altra innovazione che è particolarmente significativa. Sì, un po' di progetti interessanti. Eccoci, allora abbiamo in studio Kulik Ilia, che viene da Veneto Nanotech, che ha presentato un progetto veramente innovativo, un trattamento di tessuti al

Detto questo, che cos'è esattamente una barca laboratorio? Lo hanno chiesto a Fabio Orlandini, che è un ricercatore del Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano e che era lì al Salone Nautico. Allora, barca laboratorio è uno strumento di misura, fondamentalmente, che serve a fornire dei dati utili sia ai progettisti che ai ricercatori in campo navale. Barca laboratorio è una gigantesca bilancia che misura le forze aerodinamiche globali generate dal piano velico. Il piano velico è interamente collegato a un telaio in lega leggera d'alluminio, che a sua volta è collegato allo scafo solo tramite 6 punti, nei quali sono poste celle di carico che misurano le sollecitazioni trasmesse dalle vele. Dicevi che è come una bilancia, quindi focalizziamo questa immagine che è suggestiva ma semplice da capire. Allora, facciamo finta che noi vogliamo pesare qualcosa su questa bilancia. Potresti farci il parallelo tra le componenti di una bilancia normale? Normale a piatto e questa barca. Diciamo allora, una bilancia tradizionale con cui misuri la pasta è composta da un corpo, da uno strumento che misura la forza della pasta, quindi il peso della pasta, che è quello che ci interessa, e un piatto rigido che tiene la pasta, che accoglie la pasta. La nostra barca funziona esattamente allo stesso modo. C'è il guscio, che costituisce il corpo della bilancia, ci sono 6 celle di carico, che sono gli strumenti di misura che concretamente leggono le forze, c'è il telaio rigido, che funziona da piatto, al quale sono collegate le vele, che sono come la nostra pasta. Le vele, appunto, che ricoprono un ruolo fondamentale e che sono allo stesso tempo ricoperte di sensori. Anche sulle vele ci sono dei sensori di pressione e ci sono anche delle celle di carico localizzate nei punti d'attacco, quindi nelle sartie, negli stralli e dove ci sono le maggiori sollecitazioni. Ecco, le tecnologie che vengono applicate su queste barche sono poi applicabili su delle barche, diciamo, tradizionali, civili, non so neanche bene come chiamarle, oppure sono riservate a questo tipo di strumentazioni? No, il telaio è un qualcosa legato esclusivamente a questo tipo di imbarcazione, quindi allo scopo che si prefigge, cioè quello di misurare le forze aerodinamiche. In un'imbarcazione tradizionale non c'è un telaio, ma concettualmente è spalmato sullo scafo, è lo scafo che viene irrigidito. Questa barca quindi è progettata in maniera da raccogliere dei dati, poi i dati vengono elaborati a bordo oppure verranno scaricati su delle piattaforme fisse e, seconda domanda, quando sarà, diciamo, operativa? I dati possono essere elaborati sia sull'imbarcazione in tempo reale che poi offline nelle strutture del Politecnico del Polo Territoriale di Lecco. L'imbarcazione sarà pronta per la primavera del 2013, quindi il varo è previsto nel primavera 2013. Ricordiamo che è la quarta barca di questo genere che esiste nel mondo, quindi anche un esperimento forse nuovo per tutta l'Europa. È la quarta imbarcazione nel mondo, ma sarà l'unica attualmente navigante, perché comunque le 3 precedenti esperienze si sono concluse nel 2000. Grazie Fabio, adesso passiamo la linea ad Alberto, che è in compagnia di un altro ospite. Io sono con Fabio Fossati, che è il responsabile scientifico del progetto Barca Laboratorio, nonché responsabile scientifico dell'Ecco Innovation Hub, e a lui chiediamo qual è il vantaggio di avere una barca laboratorio e quindi di progettare seguendo le indicazioni che vengono da misure di questo genere rispetto ai metodi tradizionali. Innanzitutto direi che tradizionalmente la progettazione delle imbarcazioni ha, come dire, seguito un approccio forse più di tipo artistico che non di tipo scientifico. Sicuramente diciamo che questa tendenza è sempre più abbandonata, nel senso che oggi si cerca di progettare in maniera molto approfondita, cercando di avere dei modelli che ci permettano di prevedere durante lo sviluppo del progetto quale sarà il comportamento della barca, in modo da ottimizzare il più possibile il progetto. È in questo quadro che si inserisce la valenza della disponibilità di uno strumento di questo genere, nel senso che questi modelli previsionali del comportamento dell'imbarcazione hanno bisogno di tutta una serie di informazioni che sono legate sostanzialmente al modo di funzionare di un'imbarcazione, che è di fatto una macchina che interagisce contemporaneamente con l'aria e con l'acqua. Quindi è necessario conoscere in dettaglio le azioni che l'aria e l'acqua trasmettono all'imbarcazione per poter poi calcolare e prevedere il tipo di comportamento che l'imbarcazione avrà. Questo è un problema molto complesso e questa forse è anche la ragione per cui tradizionalmente i metodi di progettazione sono stati, come dire, non al passo con quello che poteva succedere in altri ambiti, proprio perché le azioni che l'aria e l'acqua trasmettono in imbarcazione sono difficili da identificare. Oggi abbiamo per esempio la disponibilità di una serie di strumenti di tipo numerico, grazie alla disponibilità di supercalcolatori, che è sempre più facile avere a prezzi bassi e a costi bassi, però per esempio questi programmi di calcolo, questi metodi numerici hanno ancora bisogno di tutta una serie di verifiche di correttezza dei risultati che producono, e quindi per esempio da questo punto di vista i dati che vengono raccolti sul campo con uno strumento di questo tipo sono estremamente preziosi, per poter affinare questi metodi di calcolo. Quindi c'è un aspetto, come dire, di supporto alle metodiche di progettazione e alle possibilità di poter disporre di strumenti progettuali sempre più raffinati, apporto assolutamente interessante. La sperimentazione sui modelli in scala, che tradizionalmente nella progettazione nautica è stata, come dire, il faro e la linea guida per poter reperire le informazioni di cui stiamo parlando, porta con sé purtroppo una serie di limitazioni legate al fatto che si fanno comunque prove su modelli che non hanno le stesse dimensioni dell'oggetto vero, da un lato, e soprattutto si fanno delle prove in ambienti laboratoriali. Una galleria del vento produce un vento artificiale che non ha le stesse caratteristiche del vento reale. Una vasca navale produce una condizione di flusso intorno alla carena artificiale che non ha esattamente le stesse caratteristiche che ci sono in mare. Stanno arrivando tecnologie per la didattica e lo studio che cambieranno in profondità quanto si è fatto finora. Ci sono i primi esperimenti che mettono al centro la rete, come prevedibile. Al Politecnico di Milano il centro METID, che si occupa di strategie didattiche, ha realizzato una nuova piattaforma per studenti e docenti. A Susanna Sancassani, che dirige questo centro, ho chiesto in che cosa consiste, dove sta questa novità. Eventualmente forte novità sta nel fatto di poter uscire dalla dimensione dello studio isolato e individuale verso una dimensione di comunità d'apprendimento allargata agli studenti che seguono il percorso con me, ma all'intera comunità dell'Ateneo nel suo complesso, no? Proviamo a spiegarlo. Qui entriamo in una dimensione, in un ambiente, in un luogo completamente diverso. In un ambiente diverso nel quale in primo luogo io dovrei poter trovare non solo i materiali che mi mette a disposizione il mio docente, ma quello che l'intero Ateneo mette a disposizione. E aggiunti a questi i materiali che magari la comunità di ricerca del mio Ateneo ha selezionato come materiali utili disponibili in rete. Altro punto molto interessante. Ma non solo, dovrei poter avere accesso anche ai materiali che i miei colleghi, quindi gli altri studenti, hanno elaborato per raggiungere gli stessi obiettivi che sto raggiungendo io. Poi c'è il lavorare in gruppo, no? Cioè si cerca nei corsi di laurea di fare dei gruppi che magari durano anche 4, no? 5 anni. Sì, la capacità di lavorare in gruppo ormai è assolutamente assodato, è una competenza trasversale fondamentale in qualsiasi percorso d'apprendimento e ancora di più nelle lauree di tipo tecnico-scientifico. E l'utilizzo di strumenti in rete mirati proprio alla collaborazione di gruppo è sicuramente utile sia per far crescere le proprie capacità di collaborare, ma anche perché è importante come contenuto d'apprendimento in sé. Saper lavorare bene in rete significherà in un futuro essere in grado di lavorare in gruppi di studio, di ricerca, di progettazione internazionali, avendo anche maturato una sensibilità personale ed una competenza personale nello sfruttare al meglio la rete per condividere materiali, per scambiare opinioni, per prendere decisioni. Quindi possiamo immaginarci un gruppo che si forma per studiare un certo tipo di temi, per partecipare insomma all'intero svolgersi di un corso, allora si può certamente trovare fisicamente, però questo strumento consente loro di trovarsi molto facilmente in continuazione anche a piccoli gruppi, a sottinsiemi del gruppo stesso, no? Certo, sottinsiemi, lasciando poi traccia a quelli che non sono presenti in quel momento. Ecco, prima di questa intervista facevamo degli esempi, tu li facevi, di materiali che possono essere prodotti. Per esempio, uno potrebbe con un suo smartphone fare un filmato di qualcosa che sta facendo. Che cosa, per esempio? Non so, risolvere un esercizio. Risolvere un esercizio, realizzare una parte di un progetto, commentare l'elaborato di un altro, un testo e così via, e condividerlo direttamente in rete. Beh, ma però scusa, a questo punto anche un docente può mettere lì tutti i suoi materiali scritti, però molto rapidamente si mette uno smartphone davanti alla faccia e dice: oh ragazzi, mi è venuta in mente una cosa importante da dirvi. La dice per 3-4 minuti, la mette sul sito e quella è a disposizione. Anche il docente ha a disposizione tutta questa duttilità. Sicuramente, e per il docente può essere un grandissimo amplificatore, no? Perché nel momento in cui io comincio a rendermi conto che tutti gli strumenti della rete sono a mia disposizione, posso ad esempio lanciare degli stimoli estemporanei agli studenti con dei brevi video, posso fare le revisioni dei loro elaborati facendo delle catture di schermo del mio video e indicando le parti che ritengo appropriate o meno. Posso addirittura magari invitare colleghi di altre università a dare il proprio parere, il proprio contributo, facendo delle brevi interviste, mettendole a disposizione online. Oh, senti, una domanda che mi sembra cruciale. È chiaramente uno strumento che insegna a studiare meglio, che chiama anche a approfondire, probabilmente a studiare di più. Si potrebbe dire che è uno strumento che premia coloro che per varie ragioni sono i più bravi, mentre invece penalizza fortemente gli altri. È così oppure no? Sicuramente questi strumenti favoriscono le persone che hanno sviluppato una capacità di giudizio autonomo e di senso critico spiccato, perché nel momento in cui ti metto a disposizione una più ampia varietà di strumenti e di canali, chi ha maggiore autonomia di organizzazione e giudizio li sfrutta nel modo migliore. È anche vero però che nel momento in cui offro una maggiore possibilità sia di varietà di contenuti e quindi di scelta tra diverse opportunità, e magari avrò la possibilità di trovare quella che è più adatta a quelle che sono le mie caratteristiche, ma anche avrò la possibilità di avere maggior rapporti con gli altri studenti e questo nelle dinamiche d'apprendimento spesso va a vantaggio degli studenti che hanno maggiori difficoltà, perché riescono grazie al supporto dei pari a superare i momenti più difficili, no? Per esempio, se sono più lenti nell'apprendimento e hanno bisogno di vedere materiale che è già stato fatto, che appartiene al passato, beh, qui hanno un deposito, hanno un archivio che è tutta la storia, no? di contenuti di un corso. Questo potrebbe essere questa molto è utile. In generale una grande forza degli strumenti di collaborazione in rete quando sono usati bene, che diventano nel tempo un repository che crea la storia della comunità che li utilizza. Io docente, la mia libertà di espressione, la mia libertà didattica, di insegnamento, e invece arriva un programma, arriva un ambiente digitale che mi dice come devo insegnare, cioè è limitante. Questo strumento è stato concepito come se fosse un grande armadio con un infinito numero di cassetti e il docente può decidere quali cassetti tenere, quali eliminare, quali aprire, quali chiudere, e personalizzare l'ambiente in base a quelli che sono i suoi specifici stili di apprendimento. L'elemento ancora più interessante è che può essere utilizzato come un hub di applicazioni e risorse disponibili sulla rete, per cui se io in questo momento ad esempio ritengo che YouTube è per me particolarmente utile come strumento didattico, perché magari di frequente realizzo video che metto a disposizione degli studenti su vari contenuti, posso con grande semplicità integrarlo nel mio ambiente. In un futuro ci saranno altre applicazioni web interessanti. L'ambiente è pensato per integrare man mano tutto quello che il docente ritiene utile. La trasmissione finisce qui, Möbius vi dà appuntamento fra 7 giorni, sempre qua. Buona settimana a tutti e a tutte.